Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24, buon sabato da Giulia Crivelli. Ci eravamo lasciati settimana scorsa un po' con i, chiamiamoli soliti, ma in senso buono, temi dell'immigrazione, delle elezioni, di politica italiana o europea o appunto di quei paesi dove ci sono le elezioni politiche a breve, il più vicino è la Francia. Questa settimana parto invece dalla copertina di Internazionale che è interamente dedicata al Portogallo e il titolo è Il successo di un esperimento di sinistra, quindi Internazionale in edicola da ieri. All'interno ci sono moltissimi articoli, vi segnalo in particolare uno che è sostanzialmente un'opinione più che una descrizione, quindi vi consiglio in realtà di comprare Internazionale, leggere anche il reportage per capire il perché di questo titolo, il successo di un esperimento di sinistra, ma questo che è un editoriale tratto dal Observador e si intitola La crisi economica non è finita. L'Observador è un quotidiano portoghese. L'autrice Elena Garrido scrive: Lisbona ha fatto grandi passi avanti, ma deve essere prudente e ascoltare gli avvertimenti dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. E vi leggo la prima parte. Grazie ai buoni risultati ottenuti nell'ultima parte nel 2016 in materia di crescita e riduzione del deficit, il governo portoghese ha vinto una importante battaglia, ma il paese non ha ancora vinto la guerra, avvertono appunto il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea. I portoghesi devono essere consapevoli che i problemi dell'economia non spariranno solo perché il governo è cambiato, ha ridistribuito un po' di ricchezza e ha stabilito che esistono politiche alternative per i paesi indebitati. E qui naturalmente il confronto va alla Grecia, vi ricorderete allo spavento, al paventato Grexit, scenario Grexit, cioè che la Grecia uscisse dall'euro o addirittura dall'Unione Europea. Vi leggo ancora una piccola parte di questo articolo che, ripeto, trovate sul numero di Internazionale in edicola da ieri. Lo stesso giorno in cui la Commissione ha pubblicato la sua valutazione, il Fondo Monetario Internazionale ha reso noto il quinto rapporto dopo la fine del programma di aiuti a finanziare al Portogallo, che si era concluso nel 2014. Nel documento si afferma che sono necessari sforzi ambiziosi per migliorare la solidità del settore finanziario, assicurare un consolidamento di bilancio e aumentare la crescita potenziale al fine di ridurre i rischi interni. Insomma, vedremo se il Portogallo è davvero un successo, come ottimisticamente raccontano alcuni quotidiani portoghesi, ma non solo, oppure se appunto ci sarà bisogno di altre piccole correzioni. Non buone notizie dalla Germania, dove ne abbiamo parlato nelle settimane, nei mesi scorsi, e purtroppo la notizia è di fatto confermata, c'è una crescente xenofobia. Scrive per esempio la Frankfurt Allgemeine Zeitung che nel 2016 in Germania ci sono state più di 3.500 aggressioni contro i profughi, che naturalmente vengono da fuori l'Unione Europea, le strutture che li ospitano e le associazioni che li aiutano. In particolare 2.545 aggressioni hanno colpito direttamente le persone, 988 sono avvenute contro le strutture e 217 contro le ONG e i volontari. Un fenomeno che viene raccontato anche dalla Süddeutsche Zeitung, che spiega come il 21 febbraio il governo della Baviera, sapete che la Germania è divisa in Länder, stati, e che è una nazione autenticamente federale, quindi ogni stato ha il suo governo e il suo parlamento, quindi il governo della Baviera ha annunciato di voler vietare l'uso del niqab, il velo, e del burka in uffici pubblici, università, scuole e asili. Tutti segnali di una crescente xenofobia che in Germania, ricordano i quotidiani, non si era ancora vista, mentre si era vista in altri paesi europei. E veniamo a quello che l'Express definisce che è un settimanale francese, il bulldozer Marine Le Pen. Sappiamo che in questi giorni, insomma, i sondaggi hanno molto cambiato lo scenario delle prossime edizioni. Il primo turno delle presidenziali, insomma, è molto vicino, sarà il 23 di aprile. Marine Le Pen è in testa, però sappiamo che sta guadagnando molto. Emmanuel Macron lo racconta a Radio 24 puntualmente, Marco Mussanè da Parigi. Secondo l'Express, comunque, gli argomenti della Le Pen, nonostante anche i suoi guai giudiziari a livello europeo, non toccano il suo elettorato. Sapete che uno degli argomenti forti di Marine Le Pen è l'uscita dall'euro, se non addirittura una sorta di Frexit, dell'uscita della Francia dall'Unione Europea. A proposito invece di candidati che speriamo, sempre per parlare di elezioni politiche in arrivo, in questo caso sono quelle tedesche di settembre, di candidati che potrebbero, che hanno invece una posizione molto europeista e che potrebbero quindi controbilanciare quella di Marine Le Pen, che ricordiamolo però è data vincente al primo turno, ma nessuno osa pensare che potrebbe poi vincere al secondo turno e quindi diventare presidente della Francia. Ma veniamo appunto all'altro articolo, questo ancora la Süddeutsche Zeitung, e parla del programma di Schulz. Sapete, Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo, si è dimesso per candidarsi alle elezioni politiche nel suo paese per sfidare Angela Merkel e continua a aumentare i suoi consensi. Addirittura poi da un altro giornale tedesco ho letto che, questa è la Westdeutsche Allgemeine Zeitung, che c'è proprio un effetto Schulz sulla SPD, che è il partito socialdemocratico a cui appartiene, perché questo nuovo leader ha fatto una specie di piccolo miracolo, e anche qui viene fatto il confronto con gli altri paesi europei, cioè ha riavvicinato i giovani alla politica, e tra i tesserati più nuovi dell'ultimo mese ci sono proprio i giovani. Ci sono 10.000 tesseramenti nuovi in tutto, e il 40% di questi nuovi tesseramenti ha meno di 35 anni, quindi giovane insomma anche nell'accezione che normalmente usiamo in Italia. Ma sempre per parlare di libera circolazione delle persone, perché sapete che un altro tema molto caldo di questa scorsa settimana è stata la sconfitta di Theresa May, che aveva in un primo tempo annunciato che tutti i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Regno Unito avrebbero visto revocati una serie di diritti. Poi il Parlamento l'ha sconfessata, e quindi questo pericolo pare scampato di libertà di circolazione delle persone, una delle dei grandi temi che sono stati alla base della nascita prima della Comunità Economica Europea e poi dell'Unione Europea. A proposito di libertà di circolazione, l'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, in un lungo articolo di Monica Ellena pubblicato da voxeurope.eu, parla dell'Europa che apre la porta a turisti e imprenditori georgiani. Il 2 febbraio, infatti, il Parlamento europeo ha approvato la liberalizzazione dei visti con la Georgia. Da qui a fine marzo la misura dovrà essere adottata dal Consiglio dei Ministri, e poi da fine marzo in poi ci potrebbe essere appunto questa accoglienza dei cittadini georgiani. Questo sì, è parte di un accordo di libero scambio siglato tra Tbilisi, che è la capitale della Georgia, e Bruxelles nel giugno del 2014, che ha richiesto 2 anni di lavoro. E ci ricorda questo articolo, lo sblocco è avvenuto in seguito all'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio europeo, ovvero l'organo che stabilisce l'agenda politica e le priorità dell'Unione europea. Quindi è ancora diverso dalla Commissione, che è invece una sorta di governo dell'Unione europea. E qui aggiungo, per chi magari non fosse particolarmente familiare con le istituzioni europee, che in effetti quando si parla di riformarle anche per rendere più svelti, più equi o più rappresentativi i vari organi che compongono le istituzioni europee, in effetti forse insomma chi dice questo non ha tutti i torti. Pensate appunto Consiglio europeo, Commissione europea, Parlamento europeo, che come diciamo spesso è sì un parlamento a tutti gli effetti, anzi ha persino 2 sedi, ma non legifera, nel senso che legifera, ma poi quelle leggi non sono quelle che poi diventa obbligatorio seguire nei vari paesi. Quel tipo di norme sono quelle emanate dalla Commissione europea. Torniamo in un certo senso alla Brexit, visto che ne abbiamo parlato parlando di Theresa May, perché l'Irish Times sta seguendo molto da vicino i voti che per l'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord. Questo voto potrebbe essere un'indicazione interessante per la Brexit, perché quando c'è stato il referendum il 23 giugno del 2016 i nordirlandesi erano tra quelli che si erano espressi contro la Brexit, quindi adesso vedremo come si sono riequilibrate le posizioni. Un'ultimissima segnalazione dai media, da Euronews, scusatemi, e purtroppo ci riguarda e non è una bellissima notizia, ed è che l'Italia si trova al 25esimo posto nella lista dei paesi dell'Unione Europea per digitalizzazione dell'economia e della società. C'è questa analisi condotta dalla Commissione Europea sui progressi nei vari stati, e nella UE resta un divario tra paesi all'avanguardia, come possiamo immaginare Danimarca, Finlandia e Svezia, e invece i paesi del sud Europa siamo in, insomma, in buona compagnia, anche se non so se è il termine giusto, con anche la Spagna e appunto la Francia, che sono ben sotto, oltre la metà della classifica. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, per chi vuole appuntamento domani verso le 7:15 per la rassegna dei quotidiani italiani. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.